lasciami e non guardarmi. Ora rimettiti i vestiti e vattene. Ascoltami e non cercarmi. Ho solo vuoto dentro ora che lei non c'è. Alzati e non odiarmi, ma io non sento ciò che tu provi per me. Ascoltami, devi andare via. Sarebbe stupido smorgarsi insieme a me. Che non ho niente per te. E so che cosa vuoi, però non posso dartelo io. Io non ho niente per te. E so che cosa vuoi, però non posso dartelo io. Ancora no. Quell'amore che vuoi, quel calore che sai, non posso dartelo io. Ancora no. Scappa in fretta se puoi. Quegli abbracci che vuoi, non posso darteli io. Ancora no. E anche se poi ti cerco, non ritornare mai. Prendi le tue cose, non voltarti mai. Anche se piangi al buio mentre pensi a me, mi ringrazierai di averti allontanato. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Perdermi e non cercarmi è la cosa più giusta che puoi fare per te, per te. Ascoltami, devi andare via. Io sto solo provando a proteggerti da me, da me. Che non ho niente per te. E so che cosa vuoi, però non posso dartelo io. Io non ho niente per te. E so che cosa vuoi, però non posso dartelo io. Ancora no. Quell'amore che vuoi, quel calore che sai, non posso dartelo io. Ancora no. Scappa in fretta se puoi. Quegli abbracci che vuoi, non posso darteli io. Ancora no. Quell'amore che vuoi, quel calore che sai, non posso dartelo io. Ancora no. Scappa in fretta se puoi. Quegli abbracci che vuoi, non posso darteli io. Ancora no.